quella dell'attualità. Ma che male ci sarà se siamo fissati con il bianco e nero, il carosello e il varietà. Questa gioventù bruciata l'accendiamo noi perché siamo ragazzi, e siamo ragazzi, retro scambiamo i tetti per delle tavole da surf, andiamo matti soltanto per il rock and roll. Siamo ragazzi, siamo ragazzi retro, noi che facciamo party fino alla mattina, bevendo whisky e soda, sangue brillantina. Sogniamo un grande appartamento in un jukebox, come vicini Johnny Cash e Rolling Stones, cantando sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sono convinto che la mia ragazza voglia fare l'open up. Ma che male ci sarà se i miei pensieri sconci io li faccio dentro una Cadillac. Se vuoi futura valvole tu chiamaci perché siamo ragazzi, siamo ragazzi, retro scambiamo i tetti per delle tavole da surf, andiamo matti soltanto per il rock and roll. Siamo ragazzi, siamo ragazzi retro. Tu fa l'americano anni 50, con le basette lunghe fino alla mutanda, sopra il vestino col giubbotto alla James Dean. Stasera nego i miei problemi dentro al jean, cantando sha la la la la la la la la la la la la la la la. Siamo distratti finché fa giorno, poi però passiamo.